Bene, buongiorno a tutti. Volevo dire che la prossima settimana, ecco perché le persone che mancano e che voi conoscete dovreste gentilmente dire che venissero, se hanno interesse, se non hanno interesse, si facciano cose a fare loro. Perché? Perché vengono distribuiti gli schede di valutazione e se non ci sono, siccome lo si può fare una volta sola, come sapete perfettamente, deve essere chiusa in busta, eccetera, quindi se conoscete delle persone che frequentano questo corso e oggi non sono venute, pregate di venire, saranno le valutazioni del modulo A, per il modulo B, cioè quello del terzo anno, è un altro discorso. Per questo modulo A, su cui confluisce il terzo anno e il primo anno, verranno distribuite giovedì prossimo. Unitamente alle medesime, verranno stabilite, io queste qui non le vedrò perché verranno subito messe nelle buste, invece ci saranno delle schede nuove da voi a me con cui è data questa possibilità di colloquiare con il docente e dirgli quindi quello che vi piace, quello che non so, tutto. Può anche fare delle osservazioni di carattere personale sul docente, anche fisiche, tanto sono anonimo, ecco, ma io non vedrei male vedere dei complimenti, senza assolutamente coartare la vostra volontà, ecco. Quelle le prendete a casa, mentre le prime dovete fare subito qui, di Corriere, di Maria, che c'è, le prime, le altre invece le fate a casa, dopo qualche giorno le portate, per portare. Senza minimamente influenzare, come si può dire, la giuria, di come vedrai bene. A pagina 329 del vostro libro, che l'aveva detto l'altra volta, l'aveva detto, è la 324, vediamo un po' se... è la 324. Quello che comincia per qua, bene, ci siamo? 324. Adesso guardate il capoverso, se qua sì ancora, ci siamo? Adesso scendete di tre righe, quattro righe, quello che è, ed è, inizia il nostro capitoletto con Me, ma chérie, j'y pense. Ci siamo? Siamo tutti, molto. E allora questo è il capitolo 9, il capitoletto 9, il titolo di questo capitoletto è Una frase oscena. Allora, introduciamo il capitoletto, attenzione a me, occhi. Siamo tutti, ragazzi, vorrei avere la vostra attenzione, delle persone disperse nelle ultime ore. Poi ognuno di voi ormai al suo posto, lei per esempio sta in quel posto lì inchiodato, non la schioda nessuno. Se io venissi però con i capelli come lei, qui, sarei visto con sospetto, mi piacciono molto i capelli. Bellissima, qua barba e piatti. Che cos'è la gelosia? Scusate, se può sembrare una naturale cosa. La gelosia, disse qualcuno, che credo che fossi io per la verità, però io ero convinto che non fossi io, è stato così. Per molto tempo ho attribuito questa opinione a qualcuno, poi ho detto, ma chi è che l'ha detto? Ma chi cazzo l'ha detto? E poi passando il tempo mi sono reso conto che non l'ha detto nessun altro se non l'ha detto io. Ma questo però non so più quando l'ho detto, molti anni fa. La gelosia è un cane che ti morde il fegato. Ecco, è un cane che ti morde il fegato. In questa scena noi vediamo un attacco di gelosia da parte del narratore nei confronti di Albertine e come sapete il narratore teme che Albertine lo tradisca, diciamo così, usando questi termini crudi e approssimativi, Laura Dicca però non solo con uomini, ma soprattutto con donne. La cosa è estremamente fascinosa, perché Albertine nella realtà è un uomo, ed è come se lui Proust, omosessuale, vivesse insomma questo tipo di gelosia nei confronti di cui l'uomo, la donna diventata uomo, lo vivesse nel suo romanzo. Quindi lei qui è accusata di avere dei rapporti con delle donne, avete capito? Con delle donne, lui teme che abbia dei rapporti con delle donne, teme ben di peggio. Tende qualcosa che ha a che fare con la sessualità di Albertine, che gli è stata finora abbastanza celata, nascosta. Come sapete, noi non abbiamo in nessuna pagina una rivelazione di rapporti veri e propri tra Albertine e il narratore. Com'è che questo timore viene rinfocolato? Da una cosa che dice Albertine, che non vi anticipo. E allora il narratore, in una delle più magari si può un po' chiudere in una delle più straordinarie pagine della Recherche, di questo sommo libro della Recherche, e il narratore comincia ad assediare Albertine di domande. È chiaro? Di domande. Ora, siccome tutti voi qui presenti sapete che cosa è questo cane che morde il fegato, e se non lo sapete, poveri voi, perché vuol dire che non avete sentimenti, potete buttarvi a tenere più subito, immediatamente, appena usciti di qui, andate, anche alla miene, insomma, dove è possibile di buttarvi. Il geloso, questo è il quesito, vuol sapere o non vuol sapere? Questa è la domanda sostanziale. Il geloso vuol sapere, ma vorrebbe sapere cosa vuole. Nel dubbio, meglio non sapere. Ecco perché la raccomandazione che si fa sempre da parte di signori della mia lunga esperienza di vita è non tornare mai dalla propria amante a casa, in ore diverse da quelle che però si può mai sapere quello che è successo nel frattempo, no? Quindi se tu dici che torni il lunedì, non ti venga in mente di tornare la domenica. Questo. E adesso leggiamo questa pagina meravigliosa con questo crescendo, ecco, che naturalmente lo leggiamo subito in translation per ovvi motivi di tempo. Il capitolo è il 9, una frase oscena. Titolo del capitolo. Allora, chi teme che possa essere la possibile contubernale, capite ormai come si dice questa parola, di Albertine, ma non del re, cioè non una ragazza come lei, ma una signora giovane. Ma quando uno è geloso, qui è un aspetto interessante, può essere geloso di chiunque, può essere geloso di una persona appetibile, può essere geloso di un muratore, può essere geloso del portiere, del meccanico. Io mi ricordo, tanto per dirvi la ricordate delle cose, che una volta avevo un'amica che era gelosa di chi? Ascoltate bene, io ero andato dal meccanico, era geloso del mio meccanico. Io dico, e questo mi sembrava veramente incredibile, insomma, perché mi aveva rivolto un elogio, un complimento, non lo so. Quindi il fatto che lei sia gelosa di Madame, lui che sia geloso di Madame de Rivière, Madame de Rivière è una signora di una certa età, no? Che ha il suo salotto aperto a loro, due dei protagonisti della Recherche, quindi è un po' strana la cosa. Tant'è, la gelosia è un processo folle, no? Quindi lui è geloso di questa signora, ripeto, non più giovanissima, e poi soprattutto vede lei non lo sa direttamente, ma adesso io dico cosa saprà, degli abissi nella psicologia di Albertine, e vediamo questo capitolo. Lui intenta, vi dico subito questo, di favorire l'incontro di Albertini con Madame Bergeret. Perché? Per mostrarsi magnanimo. I grandi gelosi vogliono mettere alla prova l'oggetto d'amore mostrandosi magnanimi, no? Ma vai con lui, ma vai con lei, no? Per far vedere che non temono. Queste sono cose. Allora, ma mia cara, adesso che ci penso, io vi darei volentieri qualche centinaio di franchi, perché andiate a fare dove volete, seguite? A fare dove volete la signora elegante e diate una cena, una bella cena al signore, invitate una bella cena il signore e la signora Bergeret. Ahimè, Albertine era parecchie persone, la più misteriosa, la più semplice, la più atroce. Si mostrò nella risposta che mi diede con aria di disgusto. E di cui a dire il vero io non distinsi bene le parole, neanche le parole dell'inizio, poiché non terminò, e non le ricostruì che un po' più tardi, quando ebbi indovinato il suo pensiero. Si sente retrospettivamente quando si è capito. Grazie tante, spendere soldi per quei due vecchi, preferirei meglio che mi lasciaste una volta libera perché possa andare a farmi rompere. Subito il suo viso si importunò, ebbe l'aria desolata, si mise la mano davanti alla bocca come se avesse potuto ricacciare le parole che aveva appena detto e che io non avevo affatto compreso. Che cosa dite, Albertino? No, niente, dormivo a metà. Ma no, voi siete assolutamente sveglia. Pensavo alla cena dai Bergeret, molto gentile da parte vostra. Ma no, io parlo di quello che avete detto. Ma ella mi diede mille versioni che non quadravano affatto, non solo con le sue parole, che interrotte mi restavano vaghe, ma con quella interruzione stessa e con lo rossore improvviso che l'aveva accompagnato. Su, mia cara, non è questo che volevate dire. Se no, perché vi sareste fermata? Perché trovavo la mia richiesta indiscreta. Che richiesta? Di dare una cena. Ma no, non è questo. Non è affare di discrezione fra noi due. Ma sì, al contrario, non bisogna abusare delle persone che si amano. In ogni caso, vi giuro che è questo. Da una parte, mi era sempre impossibile dubitare di un giuramento suo, d'altra parte le sue spiegazioni non soddisfacevano la mia ragione e non cessai di insistere. Su, almeno abbiate il coraggio di finire la vostra frase, voi siete rimasta a rompere. Oh no, lasciatemi! Ma perché? Perché è spaventosamente volgare. Avrei troppa vergogna a dirlo davanti a voi. Non so che cosa pensavo, quelle parole di cui non so nemmeno il senso e che avevo sentito un giorno per la strada, dette da persone assolutamente volgari, mi sono venute alla bocca così senza motivo. Non si riferiscono né a me né a nessuno. Sognavo ad alta voce. Sentì che non avrei cavato più niente da Albertino. Mi aveva mentito quando aveva giurato poco fa che ciò che l'aveva interrotta era una paura lontana di indiscrezione, divenuta adesso la vergogna di fare davanti a me un discorso troppo volgare. Ora era certamente una seconda menzogna. Infatti, quando eravamo insieme con Albertine, non c'era discorso così perverso, parole così grossolane, che non pronunciassimo mentre ci facevamo delle carezze. In ogni caso era inutile insistere in quel momento. ma la mia dell'omine restava assediata da quella parola rompere. Albertin diceva sovente rompere il muso, oppure rompere scatole, o anche quante gliene ho rotte, per dire quanto l'ho insultato. Ma diceva questo correntemente davanti a me, e se è questo che aveva voluto dire, perché aveva taciuto bruscamente? Perché era arrossita a tal segno, messo la mano sulla bocca, rifatto diversamente la frase, e quando aveva visto che io avevo sentito rompere, dato una falsa spiegazione. Ma dal momento che io rinunciavo a proseguire un interrogatorio al quale non avrei avuto risposta, il meglio era di aver l'aria e non pensarmi più. E tornando col pensiero ai rimproveri che Albertini mi aveva fatto d'essere andato a trovare la signora Turgeon, le dissi molto goffamente, il che era una specie di scusa stupida, volevo proprio chiedervi di venire questa sera alla serata dei Verdurin. Frase doppiamente maldestra, perché se lo volevo, avendola vista tutto il tempo, perché non gliel'avevo proposto prima, furiosa della mia menzogna e resa ardita dalla mia vendetta, se me l'avesse domandato per mille anni, mi disse, non avrei acconsentito. Vi sono persone, queste sono persone che sono sempre state contro di me, hanno fatto di tutto per contrariarmi. Non c'è gentilezza che io non abbia avuto per Madame Verdurin a Balbec, e ne sono stata ben ricompensata. Se mi facesse chiedere di venire al suo letto di morte, non andrei. Vi sono cose che non si perdonano. Quando voi è la prima indelicatezza che mi fate. Quando François mi ha detto che eravate uscito, era contenta. Tu, di dirvelo, avrei preferito che mi spaccassero la testa a metà. Ho cercato di far sì che non si notasse niente, ma nella mia vita non ho mai subito un affronto simile. Ma mentre parlava, continuava in me, nel sonno vivo e creatore dell'incosciente, sonno dove finiscono di incidersi le cose che ci sfiorano soltanto, nel quale le mani addormentate si impadroniscono della chiave che apre, vanamente cercata fin lì, la ricerca di quel che avevo voluto dire con la frase interrotta, di cui avrei voluto sapere quale sarebbe stata la fine, e tutto a un tratto due parole atroci alle quali non avevo affatto pensato caddero su di me, il culo, non posso dire che venissero tutte a un tratto, come quando in una lunga sottomissione passiva un ricordo incompleto. Mentre si cerca dolcemente, prudentemente di stenderlo, si resta piegati, incollati a lui. No, contrariamente alla mia maniera abituale di ricordarmi, ci furono, credo, due vie parallele di ricerca. L'una teneva conto non soltanto della frase di Albertin, ma del suo sguardo eccitato quando le avevo proposto, arrabbiato quando le avevo proposto un dono di danaro per dare una bella cena, uno sguardo che sembrava dire grazie a spendere soldi per cose che mi annoiano. Quando senza soldi potrei farne di cose che mi divertono? Ed è forse il ricordo di quello sguardo che aveva avuto, che mi fece cambiare metodo per trovare la fine di quel che lei aveva voluto dire, fin lì io ero stato come ipnotizzato dalle ultime parole, da quest'ultima, rompere, ma aveva voluto dire rompere che? Rompere il muso? No. Rompere le scatole? No. Rompere, rompere, rompere. E tutto a un tratto il ritorno allo sguardo con quell'alzata di spalle che aveva avuto al momento della mia proposta di dare una cena. Mi fece retrocedere anche tra le parole della frase e così vidi che non aveva detto rompere, ma farmi rompere. Orrore. Era questo che avrebbe preferito. Doppio orrore, perché anche l'ultima delle sgualdrine che consenta ciò o lo desideri, non mi impiega con l'uomo che mi si presta questa spaventosa espressione, si sentirebbe troppo avvilita, con una donna soltanto, se ama, dice questo, per scusarsi del fatto che si darà fra poco a un uomo. Albertine non aveva mentito quando mi aveva detto che sognava a metà, distratta, impulsiva, non pensando al fatto che stava con me, aveva avuto quell'alzata di spalle, aveva cominciato a parlare come se, come avrebbe fatto con una delle sue donne, con forse una delle mie fanciulle in fiore. E bruscamente richiamata la realtà, rossa di vergogna, ricacciando quel che stava per dire nella bocca disperata, non aveva più voluto pronunciare una sola parola, non avevo un secondo da perdere, se non volevo che ella si accorgesse della disperazione in cui mi trovavo. Ma già dopo il soprassalto di rabbia, le lacrime mi spuntavano agli occhi, come a Valbec la notte che aveva seguito la sua rivelazione dell'amicizia con i Venturi. Mi occorreva inventare immediatamente per il mio dolore una causa plausibile, nello stesso tempo capace di produrre un effetto così profondo su Albertine che questo mi desse una pausa di qualche giorno prima di prendere una decisione, e così al momento in cui mi diceva che non aveva mai provato un affronto simile a quello che le avevo inflitto uscendo e che avrebbe preferito morire piuttosto che sentirsi dire questo da François, e perché irritato della sua risibile suscettibilità le dicevo che quel che avevo fatto era assolutamente insignificante, che non c'era assolutamente nulla di offensivo per lei nel fatto che fossi uscito. Mentre in quel tempo, parallelamente, la mia ricerca incosciente di quel che aveva voluto dire dopo la parola rompere, aveva sortito e la disperazione in cui la mia scoperta mi gettava non era possibile da nascondere completamente, invece di difendermi io mi accusai. Mia piccola Albertine, dissi con tono dolce che raggiungevano le mie prime lacrime, potrei dirvi che avete torto, che quel che ho fatto non è nulla ma mentirei. Il fatto è che avete ragione. Avete capito la verità, povera, piccola mia? Il fatto è che tre mesi fa, quando avevo ancora tanto affetto per voi, non avrei mai fatto questo. è un niente ed è enorme a causa dell'immenso cambiamento del mio cuore, di cui questo è il segno. E poiché voi avete indovinato questo cambiamento che speravo di nascondervi, questo mi induce a dirvi: ecco, mia piccola Albertine, le dissi con una dolcezza e una tristezza profonda, ecco, la vita che voi conducete qui è noiosa per voi, la cosa migliore è lasciarci. E voi chiedete per la cosa migliore sono quelle che si effettuano più rapidamente, io vi chiedo per abbreviare la grande sofferenza che sto per avere di dirmi addio questa sera e di partire domani mattina senza che io vi abbia rivista mentre dormirò. Avete seguito? È una gran pagina, eh? È una gran pagina. Tradotta in modo, diciamo le cose come fa. Ma non vengono, veramente. Allora, la bellezza di questa, la bellezza dell'arte, diceva Kant, tanto per citare uno degli interlocutori del settore del bar quotidiano, la bellezza dell'arte, sapete quando è quando io creo delle cose universali, capite cosa voglio dire? Perché il viaggio di un adolescente spesso è insignificante, perché non crea delle situazioni universali. Noi siamo affascinati dall'universale, e se l'universale, facciamo questo discorso, e se l'universale ha un livello stilistico di merda, moccia, il fatto che sia universale suggestiona. Io abito vicino a Ponte Milvio, dove c'è il Lucchetti, c'era un lampione, porca Eva, pieno di Lucchetti. Adesso ci sono 16 lampioni, tutti 16 pieni di Lucchetti, questi lampioni stanno quasi crollando, e una quantità infinita di ragazzi stronzi che vengono a fare i Lucchetti. Però Giovanni, diceva che il successo ha sempre un senso, no? E qual è il senso? Il senso è che di Riffa o di Raffa, questo osceno, privato, non possiamo dire questo, individuo pregevole che è moccia, ha toccato delle situazioni universali. Avete capito? Qui Proust, dall'altezza del suo livello, tocca una situazione universale, perché tutti ci siamo trovati a fare delle domande, se abbiamo avuto una storia intensa, volendo sapere e non sapere, e soprattutto ci siamo trovati di fronte a questa considerazione, che noi della persona amata conoscevamo certe cose, ma il passato no. E non solo il passato no, ma non conoscevamo quello che avveniva appena la persona se n'era andata, le persone che incontrava, che è un qualcosa da questo punto di vista di fascinoso nel fatto, l'abbiamo già accennato qualche volta, che qualcuno è in un rapporto sentimentale e voglia sapere tutto dell'altra persona, di suo padre, sua madre, suo fratello, gli amici, no? E ci sono questi tentativi di fusione che poi sono spessissimo impotenti, perché la vera ricchezza di una persona è il suo passato, e il suo passato non lo si compra. Non compri nulla del passato di una persona, dell'anima di una persona. Qui abbiamo un tentativo valoroso che viene fatto da ogni innamorato, che è quello di mostrarsi benevolo, comprensivo nei confronti degli eventuali amanti dell'oggetto d'amore, quindi gli dice: se voi volete andare con la signora per dire il marito, quindi tutto su una copertura ipocrita, a cena, patrio pure io vi do qualche centinaio di franchi, non perché, come sapete, sono tutto il narratore, è ricco. Ma lei ha un modo di fastidio, perché vedete, Albertine è, e qui è il punto, è intelligente, ma soprattutto furba, impulsiva, e il fascino è nel fatto che è assai più furba e al tempo stesso impulsiva, le due cose si contraddicono, di quanto sia intelligente. Quindi dice, ma perché io ho i soldi per andare a dare una cena ai Verdurin, non ne ho, solo voglia, e esce con questa espressione, fammi rompere, e noi vedremo dopo che cosa significa. Non ve lo ripeto perché sono abituato a parlare con grande quantità di accenti, ma avete capito, perché lo dice lui in modo molto chiaro, che cosa è che lei voleva farsi rompere. Tenendo conto che la parola le beau in francese significa sia vagine, dovete sapere che quello, sia anno, ma qui il significato è del tipo B, del tipo B. Quando dice rompere, naturalmente lui non coglie il tutto, chiede, ma il fatto che lei risponda mentendo, dicendo che dormiva, sono spesso le prime menzogne che fanno crollare il mentitore. Avete capito? Come l'onorevole Di Pietro, quando era a Mani Pulite, sapeva bene, cioè è la prima menzogna che ti prega. Per mentire bisogna essere compatti. Lei dice che dormiva, ma come dormiva? Ma se dici che dormivi, non è vero, perché palesemente era sveglia. E allora dà un'altra spiegazione, come un imputato, e la scena è quella di un torturatore, che è lui, il geloso, nei confronti del torturato. Il geloso è un torturatore. L'idea assolutamente infondata che possa comprarsi, per così dire, l'altro in qualche modo. Ma la persona che suscita gelosia risponde in questo caso un'altra bugia e dice qualcosa che riguardava il pranzo dei Verdurin, che era gentile, cerca addirittura di molcerlo lui, dicendo non si può abusare delle persone che vi vogliono bene. E allora lui dice, ma come abusare? Ma fra di noi, nei nostri rapporti, ma che sciocchezze sono queste? Che cosa volevate dire? E lei dice lasciatemi, e quando dice lasciatemi io vorrei farvi considerare che la parola lasciatemi la dice uno che viene aggredito per la strada, no? Lasciatemi è come qualcuno che ti sta facendo una violenza, lasciatemi. E quale violenza è peggiore di quella che fa il geloso alla persona che patisce la sua gelosia? Alla fine viene fuori una confessione finta. Questa confessione finta è che si tratta di un'altra confessione finta, che si tratta di qualcosa di assolutamente volgare, che non si riferisce a loro. Lui continua a chiedersi finché fa un errore. Madonna, quando in un litigio ci si mette in una posizione debole, il nostro contendente immediatamente ne approfitta. Questo è da sapere. Appena abbassi la guardia in un litigio, l'altro ne approfitta. E qual è qui il narratore, il suo modo di abbassare la guardia? È quello di dimostrarsi improvvisamente non più un torturatore, ma dimostrarsi invece uno magnanimo che voleva proporre di andare dai Verdurin, quindi andare incontro a quello che supponeva fosse il suo desiderio. E allora lei, che non vuole affatto andare dai Verdurin, ma nell'ipotesi reale che lui ha in mente, vuole semmai andare a letto con lei, con la Verdurin, dice io non voglio andare con costoro perché costoro sono stati garbati nei miei confronti e non avrai in nessun modo. Non solo, ma come spesso viene in litigi, ecco perché che è il valore universale di questa pagina, cerca di rimontare, come diremmo noi, rimontare che cosa? La frittata, la frittata. Perché dice? Perché dice? Io sono stata gelosa nei vostri confronti quando voi siete andate a trovare la signora del re. Questo dire io sono oggetto del vostro processo, no? Da parte di Albertino. Quando voi dovreste meritare il mio processo, perché io sono geloso di lui, naturalmente lei non è assolutamente geloso. Però, rivoltando, come dicevamo, l'omelette, che cosa avviene? Avviene che si mette in una posizione di forza. Ma questa forza debolezza, carnefice vittima, si mette proprio nel cuore della psicologia amorosa freudiana. Non solo è vero quello che lui mette come epigrafe, le deux sexes vont chacun de son côté, l'epigrafe di Sodoma e Gomorra, i due sessi moveranno ognuno dalla sua parte, cioè in solitudine, no? Che è una frase, è un verso di Alfred de Vigny. Non solo questo è vero, cioè fra i sessi non si comunica, ma è vero anche un'altra cosa, che i sessi sono nemici. E non a caso, stata un'altra cosa che dice Proust, si parla dell'amore di conquista, come si parlerebbe di conquista di una cittadella, poniamo, no? Ma l'amore vede in scena due persone nemiche. Molto bene. E all'improvvisamente lui, la chiave che serve ad aprire, gli viene in mente quando quel caffè gli unisce le due parolette atroci. Le due parolette atroci. E qui c'è una frase meravigliosa che dice, è come quando noi cerchiamo, sentite, di stendere un contusma, di farlo dire dolcemente, ma vuol dire anche adagio, di stendere adagio prudentemente un ricordo incompleto. Mi seguite bene? Ma si rimane piegati e incollati al ricordo. Facciamo un esempio. Immaginiamo che un qualcuno di voi, siete persone molto giovani, avesse subito, cor Deus avert, un molestia da parte di uno dei genitori, da parte del genitore, come siete tutte ragazze, di sesso maschile, o uno zio, cose orrende, cose che, come si dice, con un linguaggio che conoscete tutti, cose che si rimuovono, che è una meravigliosa pagina di Freud, Il sogno di Irma, in cui si il caso di Irma, in cui una donna che soffriva di asma, di asfissia, no? Era stata disturbata sessualmente dallo zio, se non ricordo male, e in una sorta di metonimia aveva trasferito dalla vagina alla bocca il senso di fastidio e quindi non riusciva più a respirare. Credo proprio che sia il caso di Irma, sull'origine dell'isterismo. Allora, mettiamo che uno di voi avesse subito un qualcosa di così spaventoso. Mettiamo che l'avesse rimosso. Mettiamo però che qualche circostanza della vita gliel'avesse fatto ricordare. Ma sono ricordi infantili, di cui uno non ha sicurezza. E però sono ricordi che sono quei ricordi che uno maneggia con estrema cautela, come potrebbe maneggiare una bomba, capite? E quindi uno cerca di stendere questo ricordo piano piano, ma anziché stendere il ricordo piano piano per non farsi del male, succede che al ricordo tu rimani incollato. Parlo di ricordi, di cose di tipo sessuale, dato che stiamo parlando di una pagina che riguarda questo, ma ci sono infiniti. altre cose che si possono dire, no? E mettiamo che una persona, dopo un litigio che avete avuto, una persona cara, si fosse suicidata, ma voi non avete mai messo in connessione il litigio con questa persona, l'umiliazione che le avevate inflitto con il suicidio, non vi è mai passato per la testa che un giorno qualcuno o qualcosa involontariamente o volontariamente vi dice sì, era avvenuto il giorno dopo quel litigio, allora voi cominciate a pensare, ma se si fosse uccisa questa persona poi, a seguito degli insulti, delle cose malvagie che avevo detto, sono quei ricordi a cui, ripeto, uno li tratta come fossero bombe da disinnescare e si rimane invece incatenati. Quando capisci il significato di quel cassè, pensa a una cosa bella. Dice, una donna, se ha un amante uomo, non dice rompermi il eccetera, perché è troppo volgare ed è troppo avvilente soprattutto. Quando è che dice una frase di questo genere? Quando sta parlando a una donna e sta dicendo quello che sta per farsi fare da un uomo. Questo dimostra che è una donna. È il fatto che la donna, che Albertine tradisca lui con una donna, è più grave. Perché è più grave? È più grave perché è una pervertita. Mentre potrebbe essere accettato, seppure astento, il fatto che avessi un amante uomo, ma questo sarebbe più una normalità dei fatti, ma una frase del genere mostra che lo sta dicendo a una amante donna. E allora, a questo punto, ultima mirabile soluzione del mondo amoroso cristiano, decide di andare. Quando uno sceglie una frattura con la persona che ama, a volte lo fa per un motivo di sopravvivenza, solo di sopravvivenza, per soffrire di meno. E lui quindi, comportandosi in questo modo assolutamente non virile, tutto questo è molto fascinoso anche, no? Per come è il narratore, gli dice andatevene via perché io soffro troppo. Andatevene via subito, senza che vi siano possibilità di ripensamenti, in modo tale che io, domattina, quando mi sveglio, non vi trovi più. L'unica cosa che importa nell'amore cristiano è che l'oggetto d'amore ti faccia soffrire di meno. Prendiamoci qui e ci vediamo domani. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo